Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe, amava dire che anche i grandi sono stati bambini e che non tutti, crescendo, hanno perso la facoltà di distinguere un cappello da un boa che ha ingoiato un elefante. Non importa se avete 6 anni, 35 o 90, a meno che non siate eremiti che vivono su un cocuzzolo tibetano, e anche qui è tutto da vedere, avrete certamente sentito parlare di Harry Potter. Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. E tu sei Harry Potter? Io sono Hermione Granger e... tu sei? Ron Weasley. Piacere. La saga racconta le avventure dell'occhialuto maghetto adolescente Harry Potter e dei suoi migliori amici, Ron e Hermione. La scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, dove vengono educati alle arti magiche i giovani del Regno Unito, è l'ambientazione principale. Ma nel corso di 7 anni di vicende, i luoghi attraversati sono moltissimi. Tutto comincia quando Harry, 11enne orfano che abita a Little Winging con gli sgradevoli zii adottivi Vernon e Petunia, capisce di essere dotato di poteri speciali. I romanzi, pur essendo rivolti ai giovanissimi lettori, hanno una trama notevolmente complessa e moltissimi riferimenti alla mitologia, alle leggende e alla storia dell'umanità. Si tratta di novità senza precedenti nella letteratura per l'infanzia che hanno contribuito a fare dei libri del giovane mago un fenomeno mondiale. La fortunata epopea è costruita sulla classica contrapposizione fra bene e male. Dall'eroe al cattivo, dal divieto al tranello, dall'acquisizione dell'oggetto magico allo smascheramento, in fondo la struttura si regge sugli stessi elementi che il linguista russo Vladimir Propp ha rintracciato in ogni favola. Susan Ganilius, l'autrice di Harry Potter, come creare un business da favola, nel suo saggio spiega così il successo di questo racconto a metà strada tra il fantasy e il romanzo di formazione. Al centro del successo di Harry Potter ci sono i fan che hanno amato la storia e i personaggi e che hanno voluto costantemente sempre di più dalla serie. È quel tipo di emotional branding e attaccamento emotivo che catapultano il marchio verso il successo globale, come solo Harry Potter ha saputo fare. Non sono necessariamente le nuove tattiche o strategie che gli altri business cercheranno di copiare in futuro, quanto il modo in cui le varie parti sono state amalgamate. Harry Potter non ha inventato solo un mondo magico, ma anche un linguaggio che tra i lettori è diventato una specie di codice. Come a dire, se sai cos'è un'alga branchia, sei uno di noi, altrimenti sei solo un babbano. L'Animagus è un mago o una strega capace di trasformarsi prima in animale e poi di ritornare umano. Una persona può prendere l'aspetto di un'altra per un'ora se si prepara la pozione polisucco in un calderone grazie al quale si può creare ogni potente intingolo. L'energo è l'incantesimo che crea una sfera di energia capace di distruggere tutto quello che incontra. Mentre il fredda fiamma rende freddo il fuoco. Se con il giratempo ci si muove nel tempo, la metropolvere è la linea che collega i camini dei maghi per spostarsi con la polvere volante da un camino all'altro. Per difendersi dalla legilimanzia, un particolare tipo di magia che rende possibile leggere nella mente di un altro, ci vuole l'occlumanzia, che protegge i propri pensieri. E se qualcuno ha problemi di memoria, interviene la ricordella, una piccola limpida sfera di vetro che diventa rossa se il padrone ha dimenticato qualcosa. Sfortunatamente, la sfera non ricorda allo smemorato cosa ha dimenticato. Mai un libro, dall'invenzione della stampa in poi, ha venduto quanto Harry Potter, che ormai ha superato i 500 milioni di copie e si stima possa arrivare a superare la Bibbia. Non è servita la bacchetta magica, ma tanta fantasia e un pizzico di fortuna. Tradotta in 64 lingue, compreso arabo, greco, eschimese e cinese, distribuita in un centinaio di paesi, la storia del maghetto ha generato, secondo la rivista Forbes, un giro d'affari annuo di 734 milioni di euro, se si contano libri, film e gadget. Tutto questo, naturalmente, ha fatto della sua autrice una donna più ricca della stessa regina. Il suo nome è J.K. Rowling. J.K. Rowling. Harry Potter, a differenza della maggior parte delle saghe fantasy, mescola la magia con la realtà. e come quella del suo personaggio anche la vita di J.K. Rowling assomiglia a una favola. J.K. sta per Joan Caitlin, ma Caitlin è solo un omaggio alla nonna che non compare nella carta d'identità. Mamma e papà della scrittrice, entrambi londinesi, si incontrano all'età di 18 anni su un treno che li porta dalla stazione di King's Cross a Dartmouth, in Scozia. Forse vi suonerà familiare, visto che è da qui che sul binario 9 e 3 quarti parte anche l'espresso per la scuola di magia di Hogwarts. Papà Rowling sta andando ad arruolarsi nella Royal Navy, la mamma nelle Wren, le donne ausiliarie della marina militare. Lei ha freddo, lui le offre metà del suo cappotto e pochi mesi dopo sono marito e moglie. Lasciano entrambi la marina e si trasferiscono nell'Inghilterra occidentale, periferia di Bristol. È qui che il 31 luglio del 1965, stesso compleanno del maghetto Harry Potter, viene alla luce la piccola Joanne. Ero una bimba rotondetta. La descrizione della foto in La pietra filosofale di quello che sembrava un grosso pallone da spiaggia rosa con indosso cappellini di vari colori si addice perfettamente anche alle foto dei miei primi anni. Un anno e 11 mesi dopo, Joe, così la chiamano tutti, osserva, mentre gioca con un pezzo di plastilina, il papà che va avanti e indietro fra la cucina e la camera, dove la mamma sta partorendo la sua sorellina Diane. Dai è molto più carina di Joe. Per bilanciare le cose, i genitori decidono che lei deve essere quella intelligente. Un'etichetta che dà fastidio a entrambe, a Joe, che vorrebbe essere qualcosa di più attraente di un pallone da spiaggia con le lentiggini, e a Dai, oggi bravo avvocato, scocciata dal fatto che tutti notino solo il suo grazioso visetto. Rivedo anche vividamente l'immagine di me stessa che poco dopo, dando la mano a mio padre, entro nella camera dei miei genitori e vedo mia madre a letto in camicia da notte accanto a mia sorella, raggiante, nuda come un verme con un sacco di capelli e l'aspetto di una bambina di 5 anni, anche se ovviamente ho fabbricato questo falso e bizzarro ricordo mettendo insieme pezzetti di racconti ascoltati da piccola. Le immagini sono così vivide che mi tornano ancora in mente quando penso alla nascita di Dai. L'immaginazione corre veloce nella nuova casa di Winterbourne, un altro sobborgo di Bristol. Nella piccola bifamiliare, le due sorelle mettono in scena continuamente un dramma in cui una penzola dalla cima di una scogliera, cioè il gradino più alto della scala, e sta aggrappata alla mano dell'altra supplicandola di non lasciarla andare. Ricompense, ricatti, salvezza e morte. Ogni volta il divertimento è nuovo ed eccitante. Joanne, nei pochi momenti in cui non litigano, inventa storie incredibili per sua sorella che le ascolta incantata. E questi racconti poi diventano giochi di cui Joe è regista e Dai la protagonista. Negli anni 70 si può ancora giocare per strada con gli altri bambini del quartiere, soprattutto con i simpatici fratelli Potter. Nuovo trasloco e nuova destinazione. Tutshill, vicino a Chepstow, Galles. È un brutto momento perché muore l'amata nonna Caitlin, quella Kay aggiunta nel nome d'arte. A tirare su il morale di Joanne ci pensa Sean Harris, il proprietario della Ford Anglia bianca e turchese a cui sarà dedicato La Camera dei Segreti, il secondo libro della saga. Sean è il primo amico che impara a guidare e questo significa per la futura scrittrice la libertà di muoversi senza più chiedere passaggi al papà, che poi è forse l'aspetto peggiore di quando si vive in campagna da adolescenti. Ma Harris è anche un confidente, l'unica persona al mondo a cui Joe parla seriamente delle sue ambizioni letterarie e che la supporta in tutto e per tutto, credendo ciecamente nel suo successo. Nel frattempo, disgraziatamente, mamma Anne si ammala e lascerà due figlie con un padre con cui non riescono a comunicare. E questa è la ragione per cui anche Harry Potter ricorda suo padre con un misto di amore e di odio. La maggior parte dei personaggi dei miei romanzi, come succede spesso, sono ispirati a figure che ho incontrato davvero nella mia vita. Hermione, studiosa e prima della classe, sono un po' io. Albus Silente, il preside della scuola di magia, ricorda moltissimo il mio preside delle elementari. E il rosso Ron Weasley, l'amico di Harry, beh, lui è Sean Harris, il mio miglior amico, con la Ford Anglia. 1983. Joanne Rowling è una graziosa biondina dalla spiccata fantasia che dopo aver terminato il liceo decide di iscriversi all'università di Exeter, sulla costa meridionale dell'Inghilterra. In famiglia fanno pressione perché studi il francese anziché letteratura inglese, secondo loro inutile. Joe, che cerca sempre un aspetto positivo in ogni situazione, li accontenta. perché impegnarsi nel francese vorrà anche dire un eccitante anno a Parigi. All'intensa esperienza parigina di J.K. Rowling segue il rientro a Londra e un lungo apprendistato presso Amnesty International, l'organizzazione che lotta in tutto il mondo contro gli abusi dei diritti umani. Poi la ragazza si avventura da sola alla ricerca di un appartamento a Manchester da dividere con il fidanzato. È un fine settimana breve ma estenuante, perché le uniche case che non costano troppo sono quelle nelle quali vivere è impossibile. Così, mentre torna sconsolata a Londra su un treno affollato, lentamente le si chiudono gli occhi per la stanchezza. Ha sempre amato quelle poltrone di finta pelle dei vagoni, dove la storia del primo incontro dei suoi genitori ne è la prova, può succedere di tutto. Ed è qui che l'idea di Harry Potter la invade con tutta la sua forza. Qualcuno ha visto un rospo? Un ragazzo di nome Neville l'ha perso. No. Oh, state facendo magia. Vediamo allora. Per il sole splendente, per il fior di corallo, stupido topo diventa giallo. Joanne scrive in continuazione fin da quando era una bambina. A soli 6 anni aveva già inventato la stralunata avventura di un coniglio con il morbillo. Però nessuna idea l'ha mai entusiasmata tanto come questa. Bisogna appuntarsela immediatamente. Ma succede sempre così. Quando ti serve urgentemente una penna, non la trovi mai. La Rowling fruga nelle tasche sperando di imbattersi in una matita dimenticata, infila il braccio fino al gomito nella borsetta, tira fuori anche tutto il contenuto, ma la penna proprio non c'è. E lei è troppo timida per chiederla a un estraneo. Adesso credo che sia stato il destino a non farmela trovare. Il treno era in ritardo e io non potei fare altro che stare seduta a pensare per 4 lunghe ore. Tutti i particolari mi ribollirono in testa e quel ragazzino magro con i capelli neri e gli occhiali, che non sapeva di essere un mago, divenne sempre più reale nella mia mente. Forse se avessi dovuto rallentare le idee per metterle su carta, ne avrei persa qualcuna. La sera stessa, Joanne entra nella sua stanza, chiude la porta, butta la giacca sul letto e non stacca gli occhi dai suoi fogli per tutta la notte. È la prima stesura di La pietra filosofale, che porta con sé sperando di finirla quando si trasferisce in Portogallo a insegnare inglese. Il manoscritto diventa sempre più voluminoso e si sviluppano inaspettate linee narrative con una spontaneità che fa rimanere lei stessa senza parole. Nel frattempo, con la stessa velocità, Joanne si innamora, si sposa e ha una figlia. Tutto sembra andare per il verso giusto quando improvvisamente si separa e decide di tornare a casa. Lei e la piccola Jessica arrivano a Edimburgo dalla zia Di giusto in tempo per il Natale del 1993. Mentre le vetrine illuminate dei negozi invitano ai regali e i Babbo Natale fanno capolino da tutte le decorazioni, nelle tasche della Rowling i soldi scarseggiano, perché adesso le bocche da sfamare sono 2. Ma Joanne sa che ricominciare a insegnare significa tempo da dedicare interamente alla scuola, tra lezioni e correzioni dei compiti. E poi c'è Jessica, piccola, di cui deve occuparsi da sola, per quanto sua sorella possa darle una mano. Insomma, va fatta una scelta: o lavorare o finire il libro. Jo crede troppo nella sua fantasia per abbandonarla e sceglie la seconda opzione. Ogni sera, messa a letto la bambina, si siede davanti alla sua bow window, che dà sulla strada sempre bagnata dall'implacabile pioggia scozzese, e scrive freneticamente. Ogni volta che Jessica si addormentava nel suo passeggino, mi precipitavo al bar più vicino e scrivevo come una pazza. Scrivevo a mano e poi dovetti dattilo scriverlo tutto. Qualche volta odiavo quel libro, pur continuando ad amarlo. Il bar più vicino si chiama Elephant. Tavoli di legno tutti diversi, studenti che chiacchierano davanti a enormi cappuccini e fette di torta e delle immense vetrate che danno sul maestoso castello che alla luce del tramonto è poetico e con il buio diventa piuttosto inquietante. Oggi, appena entri, i camerieri ti ricordano con un certo orgoglio, foto alla mano, che lì è nato il più grande successo letterario di tutti i tempi. Ma ancora, mentre il fenomeno sta prendendo vita, per tutti quella giovane mamma single e assidua frequentatrice è solo una che non può permettersi altro che un caffè. Finalmente il libro è pronto. Joanne pinza i primi 3 capitoli, li mette in una cartellina di plastica e li invia a un agente letterario, mittente J.K. Rowling. Non fa nemmeno in tempo a gustarsi quella bella sensazione che si ha quando si è portato a termine qualcosa, perché la busta torna subito indietro, senza nemmeno essere stata aperta. Ci riprova con un secondo agente, che almeno le chiede di avere tutto il manoscritto. ma la via della pubblicazione è interminabile. Incontri che non vanno a buon fine, rifiuti più o meno superficiali. Ci vuole un anno prima di riuscire a vedere uno spiraglio. Ormai ci credevo a tratti. Ho iniziato a pensare che forse avevano ragione loro e che io ero soltanto una stupida a portare avanti un'idea così ambiziosa. Finché un giorno, me lo ricordo ancora come se fosse ieri, Jessica stava giocando tranquilla e io l'ho fatta spaventare con un mio urlo di gioia. La fortuna stava cominciando a girare. Il destino di Harry Potter è quello di cambiare per sempre la vita a J.K. Rowling. A Destini Incrociati siamo nel 1994 e la scrittrice inglese J.K. Rowling ha appena terminato il primo libro di una saga che presto conquisterà bambini e adulti di ogni parte del globo, Harry Potter. Ci ha lavorato a Edimburgo, Scozia, una città dove il vento costante piega gli alberi, un luogo in cui ogni vicolo buio e ogni scalinata sembrano nascondere dei segreti, e dove il castello che domina la città dall'alto ispira fantasie che assomigliano più a degli incubi. Per un po' di tempo è stata a casa di sua sorella Dai e poi è finita in un alloggio popolare, scegliendo di non lavorare a tempo pieno per riuscire a finire il libro, anche grazie a una sovvenzione statale. La sua immaginazione incredibile ha dato vita a un mondo dove si mescolano realtà e magia, dove il bene cerca di sconfiggere il male e i temi sono quelli della grande storia dell'umanità: amore, morte, paura, dolore, crescita individuale e collettiva. Di solito i ragazzini si spaventano di fronte a un alto numero di pagine, ma con Harry Potter succede tutto il contrario. Più di 3.000 pagine impongono tempo, attenzione, coinvolgimento. Ma a sentire i fan, non ce n'è mai abbastanza. Siamo nella Stamberga Strillante, non è vero? Jenny! Ron! Ron, stai bene? Il cane, dov'è? Harry è una trappola, lui è il cane, è un animagus! Se vuole uccidere Harry, dovrà uccidere anche noi! No, solo uno morirà stanotte. E allora sarai tu! Sembra impossibile che quella che oggi, secondo le stime che si aggiornano continuamente, è una delle donne più ricche del pianeta, all'inizio abbia fatto così tanta fatica a trovare qualcuno che credesse in lei. Invece, quando la pietra filosofale è finita, J.K. Rowling scopre che non interessa a nessuno, almeno fino al magico giorno in cui il destino decide che è arrivato il suo momento. J.K. è a casa e sta preparando la cena per la sua piccola Jessica, avuta da un giornalista portoghese dal quale ha divorziato e che non ha nessuna intenzione di aiutarla economicamente. Poco lontano da lei, sul tavolo, c'è una pila di buste che contengono i primi 3 capitoli del romanzo. La prassi è sempre la stessa, quella che segue da mesi. Scrive il mittente, il destinatario, incolla un francobollo e spedisce a tutte le case editrici sperando che qualcuno prima o poi si faccia vivo per la pubblicazione. Io sentivo che Harry Potter aveva qualcosa di speciale, ma non soltanto il maghetto. Ho creduto fin dall'inizio che anche il romanzo avesse qualcosa di unico. Suona il telefono. Lei istintivamente lo maledice perché la obbliga a appoggiare il mestolo, coprire la pentola e allontanarsi per rispondere. Ma quando solleva la cornetta, fa un urlo di gioia così forte che Jessica si spaventa. È Christopher Little, l'agente letterario a cui si è affidata, e le sta dicendo che un uomo vuole incontrarla. La vita della mamma del piccolo maghetto con gli occhiali sta per cambiare per sempre. Chi la vuole incontrare è il fondatore di una piccola casa editrice indipendente, la Bloomsbury, e il suo nome è Nigel Newton. Nigel Newton. Ci sono uomini che non sono mai stati bambini, e uomini che si sono dimenticati di esserlo stati, uomini che invecchiano senza diventare grandi, e uomini grandi e grossi che però ci tengono moltissimo a non perdere mai il bambino che è in loro. Di solito sono quelli più spontanei, che sanno godersi la vita con leggerezza e che fanno del disincanto una chiave dell'esistenza felice. Tra questi c'è Nigel Newton. Non andavano ancora di moda i vini californiani quando Peter Newton, il padre di Nigel, ha raccolto le prime uve nella zona di San Francisco. Questa regione del West americano conta oggi più di 900 cantine che coltivano 224.000 ettari di vigneti. Quarto esportatore di vino al mondo, dopo la Francia, l'Italia e la Spagna, la California produce più del 90% del vino americano. Le due valli del Wine Country, la Sonoma e la Napa, contano circa 250 poderi chiamati wineries. Ma come sempre vince chi arriva primo, e Peter di certo ha avuto l'occhio lungo del vero pioniere, un po' come suo figlio, che ne ha ereditato la lungimiranza. Ricordo che quando ero piccolo adoravo il momento della vendemmia, perché si stava tutti insieme, grandi e piccoli, dalla mattina alla sera. Era come un gioco per me, anche se era faticosissimo. Ma di certo posso dire che mio padre mi ha insegnato cosa significa guadagnarsi i soldi con il sudore della fronte. Intorno al vigneto dei Newton ci sono giardini bellissimi che papà cura in modo così maniacale da essersi aggiudicato numerosi premi, tra cui un piazzamento nella classifica dei 1000 migliori giardini al mondo. D'altra parte è di origine londinese e gli inglesi, si sa, in quanto a giardinaggio hanno una lunga tradizione. Anche Nigel impara presto a potare le rose e a tagliare l'erba con una precisione così millimetrica da farla quasi sembrare finta. Gli piace farlo nelle pause dello studio il pomeriggio e anche la domenica, quando è un rito consolidato, per poi fermarsi tutti insieme a bere un tè. In casa sono in cinque: papà Peter, mamma Anne, Nigel e due sorelle. Si discute di tutto a tavola, davanti a un bicchiere di vino da testare prima che venga venduto sul mercato. Ogni tanto viene a far visita un vecchio amico di papà, il suo compagno di college William Rees-Mogg, diventato editor del Times. Nigel ascolta affascinato i suoi racconti, gli piacerebbe seguirne le orme. D'altra parte, suo padre stesso, dopo essersi laureato in legge ad Oxford, aveva scelto di dedicarsi al giornalismo, anche se poi a questa strada aveva preferito la pace della campagna. Mio padre è sempre stato un precursore dei tempi. Si è laureato alla fine degli anni 40, quando erano pochissimi a farlo. Ha iniziato a lavorare in America come giornalista e poi ha preferito trasferirsi in campagna. Anche questo oggi è un trend. Si sentono un sacco di storie di professionisti che mollano una carriera per ritirarsi e fare vita di campagna. Se papà è così tanto un mito per Nigel, è anche perché della mamma, che muore prematuramente, forse non ha poi tanti ricordi, a parte le fotografie che la ritraggono tra i fiori, sempre con il sorriso stampato sulle labbra. Nigel, capelli sottili ma piuttosto lunghi, pettinati con una seriosa riga laterale che non rende giustizia al suo carisma e un accento british che non rivela affatto il suo essere nato e cresciuto in America, si sposta per studiare prima nel Massachusetts, alla Deerfield Academy, e poi nella vecchia Europa, dove l'aspettano i solenni e prestigiosi corridoi dell'Università di Cambridge. Londra è vicina, circa 90 chilometri. Sono davvero pochi per non approfittarne durante il weekend, quando le lezioni non ci sono e si può stare finalmente con gli amici a scherzare e a bere birra. Tra l'altro, per la capitale è un periodo magico, quello a cavallo tra gli anni 60 e i 70, perché è ricca, vibrante, cosmopolita e tutte le tendenze passano da qui. Nigel, tra una passeggiata, lo studio e i nuovi incontri, può arricchire il suo già fervido immaginario. Scrive ogni tanto, ma è anche uno che conosce i suoi limiti e non ha la pretesa di far leggere le sue cose agli altri. In compenso è un velocissimo divoratore di libri. Non gli bastano mai. Ogni tanto si accorge di essere rimasto senza e bussa alla porta di qualche vicino di stanza per farsene prestare almeno uno. Per questo, quando gli propongono di fare il tirocinio nella casa editrice Macmillan, si trasferisce a Londra senza battere ciglio. Era un sogno per me poter stare quotidianamente in contatto con tutti quei libri. Io ho sempre amato i grandi classici, ma ancora di più mi piaceva scovare storie che nessuno aveva ancora letto e poi passarle agli altri. Mi faceva sentire, non so come dire, un piccolo esploratore. Dalla Macmillan alla Sidgwick e Jackson il passo è breve, perché Nigel è sveglio, preparato, e non c'è bisogno di convincere gli editori capo a dargli un incarico di responsabilità. Rimane in azienda 9 anni, macinando la gavetta fino a diventare direttore vendite. Intanto, se con una mano fa i conti, con l'altra può sbirciare i nuovi manoscritti che gli sottopongono. È forse questo l'aspetto del suo lavoro che gli piace di più, tanto che quando ha maturato una solida esperienza e un buon numero di contatti, decide di fare il grande salto. Trova i collaboratori giusti e fonda la sua casa editrice. Nigel Newton, amante delle citazioni colte, ma non al punto da avere lo snobismo tipico di chi continua a farne, chiama la sua casa editrice Bloomsbury, come il quartiere nel cuore di Londra dove si incontravano intorno alla figura di Virginia Woolf artisti e letterati usciti da Cambridge. Ma se il circolo era raffinato ed esclusivo, altrettanto non si può dire del primo ufficio della casa editrice. Putney, sud di Londra. Poche stanze in un vecchio palazzo sopra la cucina di un ristorante cinese e nemmeno i soldi per una fotocopiatrice decente quando si rompe quella vecchia. Con David Reynolds, Liz Calder e Alan Wary, la sua impresa debutta ufficialmente alla Fiera del Libro di Francoforte del 1986. Nella sua testa c'è l'idea di qualcosa di piccolo e indipendente, che sia lontano dalle grandi logiche di mercato dei colossi della narrativa. Insomma, vuole puntare sui giovani scrittori, credere in chi ha nel cassetto non soltanto un sogno, ma anche il manoscritto con il quale realizzarlo. Nigel Newton e la sua Bloomsbury sono perfetti per J.K. Rowling e il suo Harry Potter. A Destini Incrociati siamo nel 1996 e sta per esplodere uno dei più grandi fenomeni editoriali degli ultimi anni, forse il più eclatante, la saga di Harry Potter. La scrittrice inglese J.K. Rowling ha appena scritto il primo volume, La pietra filosofale, nella sua casa popolare di Edimburgo, mentre versava in una situazione economica disastrosa. Solo che adesso non trova nessuno che sia intenzionato a pubblicarlo, nonostante abbia spedito i primi 3 capitoli a tutte le case editrici possibili e immaginabili. Tutte tranne una, la Bloomsbury. È piccola e indipendente, con uffici un po' malconci e pochi soldi, ma ha raggiunto un'ottima credibilità nel corso dei suoi 10 anni di vita. Il merito, certamente, va alla illuminata gestione del suo fondatore, Nigel Newton. Ho sempre protetto la Bloomsbury, come fosse la quarta dei miei figli. Amo profondamente il mio lavoro e la mia creatura, e ho cercato di fare del mio meglio per farla crescere attraverso scelte giuste. La rifarei. E così un giorno Newton si trova sulla scrivania una busta piuttosto voluminosa, il cui mittente è J.K. Rowling. Da sempre curioso delle nuove proposte e velocissimo lettore, cerca di non farsi sfuggire nulla di quello che gli arriva. A volte contatta l'autore per incontrarlo, altre volte decide subito che il testo non va, ma questa volta è diversa da tutte le altre. Si alza di scatto dalla sedia, prende in mano il manoscritto e lo infila nella tasca della sua borsa. Si mette il cappotto e, senza dare una spiegazione ai collaboratori, corre a casa. In testa ha un'idea ben precisa. Lui è un adulto ed è sedotto da quel libro teoricamente destinato ai bambini. Se piacerà anche a sua figlia Alice, di 8 anni, allora è fatta. Lei, che dal papà e dal nonno ha ereditato la capacità di vedere le cose prima degli altri, non se lo fa dire 2 volte. È lunghissimo, ma a leggerlo ci mette veramente poco. Poi lo chiude e va da papà, che ansioso sta aspettando la sua recensione. Papà, questo libro è meglio di qualsiasi altra cosa che io abbia mai letto. Newton ha la conferma di quello che aveva già pensato. Se anche sua figlia, che fa parte del target ideale dell'epopea del maghetto, non ha dubbi, non deve averne neanche lui. Fa immediatamente la sua prima offerta, un anticipo di 2.500 sterline a J.K. Rowling, che, quando lo sa, dopo tutti questi mesi che aspetta, non crede alle sue orecchie. Seguono continue richieste della figlia, la prima bambina al mondo ad aver letto Harry Potter, e pensarlo fa un certo effetto, su cosa succederà ad Harry e ai suoi fedeli amici Ron ed Hermione. Finché nel 1997 la pietra filosofale viene finalmente alla luce e travolge i bambini inglesi, che non ne possono più fare a meno. Il successo è impressionante. Supera enormemente le più rosee aspettative, raccogliendo i consensi di un pubblico di lettori di tutte le fasce di età. Al primo romanzo ne seguono altri 6. Un'autrice sconosciuta, povera, priva di qualunque appoggio, e una piccola casa editrice indipendente danno vita a una febbre mondiale. Ho sempre desiderato essere pubblicata e ho sempre sognato di diventare una scrittrice, ma mai, mai, mai mi sarei immaginata di essere inseguita in strada, in spiaggia, davanti a casa. E mai mi sarei immaginata che tutti cominciassero a chiedermi quanto guadagno, quanti soldi ho. È un aspetto della notorietà che mi spaventa un po', anche perché mi trattano da diva, ma io voglio solo essere una scrittrice. 1998. Harry Potter e la pietra filosofale. 1999. Harry Potter e la camera dei segreti. 2000. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. 2001. Harry Potter e il calice di fuoco. 2003. Harry Potter e l'ordine della Fenice. 2005-2006. Harry Potter e il principe mezzo sangue. 2007-2008. Harry Potter e i doni della morte. Se J.K. Rowling diventa la donna più ricca del Regno Unito, superando la stessa regina, non va peggio alla piccola casa editrice Bloomsbury, che da quando ha pubblicato Harry Potter ha guadagnato milioni, fatto uscire qualcosa come 800 titoli l'anno e conta ormai centinaia di dipendenti. Sono stati versati fiumi d'inchiostro e si sono organizzati convegni e tavole rotonde su questo fenomeno completamente nuovo per il mondo della letteratura. Libri per ragazzi che sbancano il mercato e vengono letti anche dagli adulti in tutto il mondo. Certo, con Harry Potter la mia vita è cambiata, però ogni tanto vorrei che smettessero di scavare nei dati, nei conti, che facessero il controllo delle copie vendute. Insomma, ogni tanto mi piace immergermi nel mondo che non esiste. Evidentemente il successo è una magia che non ha nulla a che fare con la razionalità del marketing e con le norme decise a tavolino. È una formula che la Rowling ha scoperto senza saperlo e il suo valido aiutante Newton ha raffinato con sapienza. I gadget e soprattutto i film, con i quali Harry Potter ha preso per sempre le sembianze del giovane attore Daniel Radcliffe, hanno fatto il resto. Sta cambiando fuori. Arriva una tempesta, Harry. Come l'ultima volta. Il Signore Oscuro si avvicina. Vuole ricreare il suo esercito. Se Voldemort sta creando un esercito, voglio combattere. Tutti si chiedono adesso come farà la Bloomsbury a replicare un successo di portata mondiale come Harry Potter. Nigel Newton fa spallucce. Forse in fondo gli interessava soltanto dire alla sua Alice come andava a finire la storia. A lei e a tutti i bambini e i babbani del mondo.